Libro di Isaia. Visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe su Giuda e Gerusalemme al tempo di Ozia, Jotam, Acaz ed Ezechia, re di Giuda. Udite, cieli, ascolta, terra, poiché parla il Signore. Ho cresciuto dei figli, li ho esaltati, ed essi si sono ribellati contro di me. Il bue riconosce il suo proprietario, e l'asino la mangiatoia del suo padrone. Ma Israele non conosce, e il mio popolo non comprende. Guai alla nazione peccatrice, al popolo carico di iniquità, alla razza di malfattori, ai figli corrotti. Hanno abbandonato il Signore. Hanno disprezzato il Santo di Israele. Si sono voltati indietro. Dove volete ancora essere colpiti, voi che accumulate ribellioni? Tutta la testa è inferma, tutto il cuore languisce. Dalla pianta del piede fino al capo, niente vi è d'intatto. Ferite, lividure e piaghe aperte non sono state pulite né fasciate né lenite con olio. Il vostro paese è desolato. Le vostre città bruciate dal fuoco. Il vostro suolo, gli stranieri lo divorano in vostra presenza. La desolazione è come una catastrofe prodotta da stranieri. La figlia di Sion è rimasta come una capanna in una vigna, come un rifugio in un campo di cocomeri, come una città assediata. Se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato alcuni scampati, saremmo come Sodoma, rassomiglieremmo a Gomorra. Ascoltate la parola del Signore, magistrati di Sodoma. Prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Perché a me l'abbondanza dei vostri sacrifici, dice il Signore. Sono sazio degli olocausti degli arieti e del grasso dei vitelli. Il sangue dei tori, degli agnelli e dei capri non lo gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi richiede da voi che calpestiate i miei atrii? Cessate di portare oblazioni inutili. L'incenso è per me un'abominazione. Noviluni, sabati, pubbliche assemblee. Non sopporto iniquità e feste solenni. L'anima mia odia i vostri noviluni e le vostre solennità. Esse sono per me un peso. Sono stanco di sopportarle. Quando tendete le vostre mani, io chiudo i miei occhi davanti a voi. Anche quando moltiplicate la preghiera, io non ascolto. Le vostre mani sono ripiene di sangue. Lavatevi, purificatevi. Rimuovete dal mio cospetto il male delle vostre azioni. Cessate di operare il male. Imparate a fare il bene. Ricercate il diritto, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la vedova. Orsù, venite e discutiamo, dice il Signore. se i vostri peccati sono come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se sono rossi come porpora, diventeranno come lana. Se sarete volonterosi ed obbedirete, mangerete i beni del paese. Ma se rifiutate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada, perché la bocca del Signore ha parlato. Come mai è divenuta una meretrice la città fedele? Era piena di rettitudine. La giustizia abitava in essa. Ora, invece, gli assassini. Il tuo argento è diventato scorie, il tuo vino mescolato con acqua. I tuoi principi sono ribelli e compagni di ladri. Tutti essi amano regali e corrono dietro alle ricompense. Non fanno giustizia all'orfano, e la causa della vedova non giunge fino ad essi. Perciò, oracolo del Signore, Dio degli eserciti, il potente di Israele, mi vendicherò dei miei avversari e farò vendetta dei miei nemici. Stenderò la mia mano sopra di te, purificherò le tue scorie, come in un forno rimuoverò tutto il tuo piombo. Renderò i tuoi giudici di nuovo come all'inizio ed i tuoi consiglieri come al principio. Dopo di ciò sarai chiamata città della giustizia, città fedele. Sion sarà redenta attraverso il giudizio e i suoi convertiti per la giustizia. Ma i ribelli ed i peccatori saranno insieme annientati, e quelli che abbandonano il Signore periranno. Sì, sarete confusi a causa delle querce che amate, ed arrossirete a causa dei giardini che prediligete. Sì, sarete come quercia dalle foglie cadenti, e come giardino cui manca l'acqua. Il vigoroso diventerà stoppa, e la sua opera una favilla. Ambedue bruceranno insieme, e nessuno le spegnerà.